Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Quattro mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. One love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Dare il benvenuto al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, siete testimoni del suo debutto qui forum di Villa d'Este. No, era detto perché poi potete fare un applauso, no? E poi un domani ai vostri nipoti dite io c'ero quella volta. You act like you never had qui per vedere Matteo Renzi. Sì, sì. Abbiamo un obiettivo, fare un selfie col presidente. Andremo insieme a lui, a Ro, a parlare con Bono Vox, il leader degli U2. Io ci sono mentalmente e culturalmente affezionato per mille motivi. Lasciatemi dire, Boni, ragazzi, scusate, il PD svolge una funzione sociale. Renzi si è istituzionalizzato. Chi? Renzi. Chi? Chi? L'anno scorso è andato a inaugurare una fabbrica di rubinetti. Non lo conosco. Era Brunetta. Chi? Renzi, chi? Renzi, chi? Chi? Chi? Renzi si è istituzionalizzato. Chi? Renzi. Chi? Chi? L'anno scorso è andato a inaugurare una fabbrica. Non lo conosco. Non lo conosco. Oh ragazzi, devo fare una confessione alle 6:34 minuti. Io da piccolo volevo essere Bono. Nel senso questo che canto. Questo Bono, questo, quello che avrei voluto essere io. Di intervista a Bono da parte del direttore della stampa Mario Calabresi, si parla di Europa, di Angela Merkel, di migranti, di fame nel mondo. Vai Bono! Sei un farabutto Lorenzo Nespoli che dice dai canta, no, ma guarda, non te lo dico, ma lo penso, non fatemi rovinare anche One. Dai, allora 6:35 minuti, anzi 6:36 minuti, con Alessandro Milan, Bono che canta. Iniziamo questa settimana di 24 mattino, la 123esima per l'abolizione delle province, Udite. Allora, c'è Lorenzo Nespoli qui, Peter Bescapè in regia, voglio subito salutare la nostra, è tornata la nostra! Veronica! C'è! Mi hanno detto che è molto, molto in sé in questo momento. Veronica Gentili. Buongiorno cari, diciamo che tra la notte e il giorno non c'è stato uno stacco, quindi qui siamo ancora un che po' che hai fatto? Così. C'è la festa del fatto quotidiano? Sì, siamo alla festa del fatto quotidiano, che questi brutti e cattivi che criticano sempre tutti ogni tanto, sì. Però fanno anche delle festicciole e finisce così. Così, brutti e cattivi, finisce come? Scusa, però finisce così? Si balla, si canta così. E quindi c'è, diciamo, così cosa? No, non c'è un così, c'è che siamo ancora, come dire, sull'onda del festeggiamento, quindi ieri mi guardavano tutti attoniti all'idea che io stamattina sarei stata qui fresca e tonica insieme a voi. Ecco, fresca e tonica adesso magari se fa pedì. Ecco appunto. Va bene, alle 6:37 minuti insieme a te c'è il grandissimo Mario, non ti resta che l'amore. Eccolo qua, Mario Adinolfi, Marione. Eccolo qua, buongiorno. Come va? Reduce dal concerto degli U2, peraltro. No, veramente? Sono stato al Paralpi Tour di Torino, avevo uno show incredibile. Incredibile, vero. Quindi posso ancora aspirare così nella mia mente macata. Non puoi aspirare. Ma volevo dire, ha ancora un senso sognare di essere buono. Mamma mia, io li seguo nel live da 28 anni. Ma a me lo dice, ma anch'io. Ma è fantastico. Da Flaminio 87 con i lacrimogeni. Amo piccolini. No, Flaminio 87, io avevo 16 anni e insomma. Anch'io. Anche tu, ho capito, ma Flaminio a me non mi mandavano a Roma. A 16 io ero anni. A Roma invece, ci abitavo. Quindi. Andò così. Ecco, dai. Ale, ma l'ironia spicciola è facile, ma io sognavo di essere Bono. Tu capisci che è una frase che si presta a mille interpretazioni. Con la B maiuscola. Bono Vox, sognavo di essere Bono. Ti piace così? No. Ti piace di più? Sognavo di essere Bono, diciamo, Vox. Diciamo che è meglio fare delle precisazioni, perché si può mistificare. Vabbè, sognavo di essere quel Bono. Cantare ancora Marione questa, sì, certo. Nel concerto del 5 non hanno cantato One. Concerto del 4 hanno chiuso con One il concerto del 4. Vedi, perché adesso ci sono tutte le canzoni degli ultimi CD, insomma io sono uno di quelli che ancora ascoltava Gloria, insomma queste robe qua. Vabbè, Pride, ti sei aggiornato? No, l'ultimo CD è bellissimo. Mi sono aggiornato, no. te l'hanno mandato gratis sul telefonino. Già, è vero che hanno fatto questa cosa. Va bene, dai, ma qui dobbiamo parlare di cose che capitano. Per esempio, Renzi, come dice il nostro amico Noleggerlo, la tocca piano. Sulla questione dei migranti l'abbiamo sentita. Un Renzi che combatte, ieri era a Cernobbio, poi è andato a fare un salto al Gran Premio di Monza con Marchionne, poi è andato a fare un salto all'Expo, poi basta, credo che la giornata sia finita. Alla festa dell'Unità a Milano. Almeno un saluto a quelli del suo partito. L'ha fatto. Ha detto questa frase che fa molto discutere sull'immigrazione. Le sentite qua: l'umanità, quelli del PD, contro le bestie, che sono quelli di centrodestra. Arrivare a strumentalizzare anche questo! Anche la vita strumentalizzano! Non rendendosi conto che di fronte a quelle immagini non c'è il PD contro la destra! Ci sono gli umani contro le bestie e basta! Gli umani contro le bestie, Adinolfi, tu da che parte stai? Sei più una bestia o più... Ti piace? Io tendenzialmente sarei bestia, però insomma... Io faccio la bella. Ma non è che abbiamo anche la bella, sì. Non sei di centrodestra tu, Marione? No, però diciamo umanamente come configurazione tenderei allo bestiale. Non lo so, il dato della strumentalizzazione ovviamente, quando c'è scontro politico anche su terreni complicati come quello dell'immigrazione, ognuno strumentalizza la parte sua, insomma, questo non mi impressiona. Il fatto che un politico gridi alla strumentalizzazione dell'altro sempre è un tema piuttosto scivoloso, perché mi è venuto in mente Marino, no? Il Marino, la destra torni nelle fogne, è veramente Marino chi? Vabbè, la destra torni nelle fogne, gli è casata pure una causa adesso, è vero, è stato pure processo, è stato pure denunciato per diffamazione, ci mancava solo quella, diciamo, a Roma ci mancavano i processi. Vedi perché voleva restare ai Caraibi? Doveva restare ai Caraibi. Vabbè, però Veronica, ti piace quel tu che anche tu, insomma, non fai mica mistero di voler giudicare magari delle bestie, quelli del centrodestra. No, infatti, però detto al Presidente del Consiglio, che dici? dico che bisogna fare una grande fatica per dividere Renzi in due in questo fine settimana, cioè tutta la parte, no, appunto, la sua ubiquità in tutti i posti, per cui è riuscito a rendere, cioè il suo obiettivo è quello di rendere più o meno il pubblico delle feste dell'unità come quello di Cernobbio, quindi che il pubblico si adatti a lui e non viceversa, anche il pubblico di sinistra, quindi c'è tutta quella parte lì che è la parte che uno contesta. Su questa tematica assolutamente toni demagogici, politici, in politichese spicciolo, e va bene, sì. Contenuto non posso non essere d'accordo, e penso che molto saggiamente, come diceva l'altro giorno De Bortoli, i paesi seri davanti su questi argomenti non si dividono, beh, non in questi momenti, e quindi io penso che... Vabbè, ha fatto bene ragione a dargli delle bestie o no? Non ho capito. Sì, sì, assolutamente sì. Eccola, sì, siete proprio... delle bestie, se non... Beh, direi che dopo tutto quello che abbiamo visto in questi giorni, se ancora c'è da, così, da aprire bocca e da parlare, insomma, però non so, Marione, per te che vuol dire quello che si dice a una festa dell'unità, anche adesso non voglio rifare il paragone, ma anche Marino lo disse a una festa dell'unità, insomma, in questi momenti in cui ci si lascia un po' prendere la mano, no? La è, gente... un comizio, è un comizio, sì, è un comizio. I comizi sono comizi, non sono testi sacri, diciamo, sono comizi, e nei comizi qualche volta si eccede. Secondo me, nel caso di Marino, è stata una cosa fuori dal mondo, detto con grande franchezza, insomma. È vero, anche però questa... sono due cose diverse, sì. Quella di Marino comunque è stata proprio un'uscita, se vuoi, anche più apologetica, tutte le sue anche un po' esagerata, no, questa di Renzi invece è più a dire quello che sta succedendo, no? Speculano non sulla morte, politico, bisogna insomma costruire sempre le condizioni del comprendere ciò che avviene. Io per esempio non credo che il premier Orban sia una bestia, insomma. Il premier Orban ha una posizione molto radicale, alcuni passaggi io non la condivido anche su altre questioni, però è uno che ha tentato di fare l'interesse nazionale, forse sbagliando. Ora di questo sì, voglio dire, la divisione manichea buoni cattivi intorno a questo tema funziona. Anch'io non ci credo, non ci credo. Tra l'altro ne avremo ospite oggi l'ambasciatore ungherese in Italia, ci dia fallo nero. Ma che fallo è nero? Ma è già nero, a parte che è già nero, ma poi perché devo farlo nero? Ma che è sui tre round, sui cinque round? Peraltro l'Ungheria, fatti da fare, volevi essere buono, l'Ungheria ha dato una spiegazione di questo tipo. Volete il trattato di Dublino? C'è il trattato di Dublino, che cioè dice che un immigrante, se viene identificato, deve rimanere sul territorio dove fa richiesta. Ebbene, noi li teniamo fermi per questo motivo. Si rifiutano di darci l'identità perché vogliono passare. Invece noi vorremmo avere l'identità loro, perché così portiamo avanti la richiesta e vediamo se hanno diritto a essere considerati profughi. Invece vogliono passare, andare di qui in Austria, in Germania, in Svezia. Capisco che è brutto dirlo, ma forse non hanno tutti i torti. Non hanno tutti i torti, cara Veronica. Quanto ti piace fare il grillo parlante? Ma no, ma non, ma non hanno tutti. Cioè, poi li devono assistere, questo è giusto. È una vergogna se non, se non li aiutano. Ma non è che possono andare in giro per l'Europa per usare lo spray orticante? Hanno dovuto aspettare che ci fosse, capito, la marcia sull'Austria e sulla Germania. Quello è, a piedi. Quello è l'errore, perché non li assistono, e quello è un errore. È sbagliato, devono aiutarli. È devono... emblematico della politica che stanno attuando nei loro confronti. Orban sta facendo proprio una figura meschina, e oltretutto la sta facendo per proteggere uno, sul fronte, uno che fugge dalla Siria, arriva in Ungheria, perché non deve. Cioè, trova Orban, pensa che tragedia doppia, capito? Va bene, e su questo politicamente posso capirlo. Però perché non deve dare la propria identità? Perché dice voglio andare in Svezia, ma non è che uno può girare per l'Europa così. Però tu se non viene mi dalla stai Siria. Facendo questo discorso quando l'ipocrisia che c'è attorno al trattato di Dublino non è che ne parliamo noi qui, ma ne parlano dalla Merkel a tutti quanti, sapendo perfettamente che è una delle cose più sciocche che è stata fatta. Vabbè, però c'è. Perfetto, però ma c'è. Si sta tentando di rivederla in questo momento. Questo sicuramente. Se si cambia il sistema e si decide di accoglierli sia in maniera volontaria che non più in maniera volontaria, che a questo punto mi sembra più saggio, il trattato di Dublino si sospende. Vabbè, Marione, sai come l'ha presa Maurizio Bianconi, la frase Maurizio Bianconi è un combattivo del centrodestra? Sai come l'ha presa? Ecco un po'. Sai cosa ha detto a Renzi sulla questione bestie? Su Twitter. Renzi ha detto che quelli di destra sono bestie. Io sono di destra. Lui, ma non perché è di sinistra, era e rimane un grandissimo pezzo di merda. No. E poi qualcuno l'ha invitata a dire: ma scusi, modera il linguaggio, io non modero una bella sega. Quando, sempre su Twitter leggo, quando ci sono merde simili, a forza di moderare ce l'abbiamo tutti nel bip. Cioè, questo è l'onorevole Maurizio Bianconi. Tu hai messo un bip, però messo. Tutto il resto no, alla quinta parolaccia di seguito. Comunque andiamo al traffico, perché poi una notizia che arriva dall'America che scatenerà Maria Di Nolfi. Tu la sai già qual è? No, due donne sono protagoniste, sono due donne omosessuali che hanno te lo dico tra un attimo. Renzi si è istituzionalizzato. Chi? Renzi. Chi? Chi? L'anno scorso è andato a inaugurare una fabbrica di rubinetti. Non lo conosco. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com vi presenta. Per Eccleston mancano ancora 10 milioni di euro per assicurare il Gran Premio d'Italia a Monza. Beh, 10 milioni di euro li troviamo. Possiamo toglierli dai finanziamenti Roma Capitale o i finanziamenti a fondo perduto della Regione Sicilia. Ciao Milan, ti volevo dire che palle, rottamiamoli tutti sti politici, è ora di cambiare, ma tutti quanti, mettiamo politici dai 25 ai 30 anni e basta. L'Italia è un disastro e la colpa è vostra. Oh, ma che sta di, guardate che prima avete governato voi, ma adesso ci siete voi e state peggiorando la situazione. Ho capito, ma prima però che eravate voi. Ma signor Milan, ma voi che cazzo tenete in gamba, signor Milan? Scusate. Donne, che l'Alessandro in la radio all'informazione. Se gavi notizie da sbraccia, tu sangue l'Alessandro che gli avete contato. Capito Marione? Capito? Pillole per il pubblico di Milano. Io so che tu ti sei eccitato quando quello ha detto via tutti i politici, tutti, e mettiamo 25, tutti, ma tutti, tutti. Poi chi rimane? E chi rimane? Che tristezza. No, ma che... Il pubblico è una tristezza terrificante. No, Veronica, fai qualcosa, il pubblico di merda. Eccolo lì. Pubblico di merda! Ecco, è tornato il grido di battaglia di Mariona Di Nolfi, Nanni Moretti. Veronica, di qualcosa, dai, il pubblico. Tu ispiri delle pulsioni tadiche nel pubblico, comunque. No, questo va detto. No, sì, no. Un pochino sì. Perché? Un po' amano frustarsi. Ci sei rimasta male perché ho detto che l'Ungheria non ha tutti i torti. Allora, quello poi ce la vediamo in separata sede. Va bene. Va bene, infatti. Io ho detto subito va bene, prendo scatola chiusa. Va benissimo. Quando vuoi, tranquillo. Perché il pubblico è statico, perché tu sei masochista. Torna. Ok, sentite qui Salvini, perché poi vi devo far raccontare quello che è successo in America. Marione, preparati, eccoci qua. No. Allora, Salvini. Aspetta, la Merkel accoglie i profughi. Ridicola. Accoglie i siriani. Ciumbia, dove c'è effettivamente guerra, sceglie anche che tipo di immigrati accogliere. Tutto il resto del mondo invece deve accoglierlo l'Italia. Sì, deve accoglierlo l'Italia e va bene. Comunque Salvini ormai è talmente anacronistico che non viene neanche più tanto da commentare, neanche da accanire. Addirittura, eccolo qua. Vabbè, la lasciamo così sospesa, perché se no non ho tempo per raccontare questa. Due donne omosessuali in America, succede mo adesso te lo dico, credo nell'Illinois hanno come dire Marione, utilizzato il verbo, hanno fatto un figlio, si può dire hanno fatto un figlio? E come hanno fatto sto figlio? Con l'inseminazione artificiale. Perché sennò sapevo già che volevi dire hanno comprato, hanno fatto un figlio. Lo volevano caucasico, cioè bianco. Solo che c'è stato un errore umano. Nero. E ce l'hanno nero. Eccolo là. E quindi hanno fatto causa. hanno fatto, conto cosa significa hanno fatto causa e chiedono 50 conto. Sì, perché dicono che adesso questa bambina nera di 3 anni, a cui vogliono bene, però deve andare in una città razzista dal parrucchiere nero tutte le volte, devono entrare nel... Ma come si fa a costruire la società così e dire che va bene? Come si può immaginare di costruire una società così e dire che va bene? Con il bambino oggetto, capito? Il bambino allora oggetto di compravendita. Dicono che le voglio, dicono che lo amano alla follia, il loro figlio, però gli crea un po' di problemi. Ma qui non è una società così, qui sono due minustabens loro, quindi niente. È conseguenza, è inevitabile. Ho capito, ma non è che se due sono appunto di questo livello. I bambini in oggetti di compravendita, e tutti sei comprato la Panda, perché ormai si è diventato come comprare la Panda, se te la danno non quattro ruote motrici come l'hai ordinata nel tuo catalogo, dopodiché protesta. Un po' è così, un po' è così, un po' è così. Da questo punto di vista, un po' è così, lo volevano caucasico con gli occhi azzurri e biondo, e gli è arrivato nero, cioè gli hanno messo il seme, lo sperma di una persona nera. Ma come si può dire che sta roba va bene? Ma ragazzi, ma no, ma non è che va bene, non va bene. Ma nel frattempo discutiamo una legge che consente e legge ma questa pratica pure in Italia, no, ma dai, ma dai, no, non è così, lo fai all'estero, non è proprio così, no, no, se lo fai all'estero la child adoption, che era l'utero affitto, perché tu dici, tu dici, no, non è che possono fare altro, ho capito, ho capito. Veronica, tu che dici? Vabbè, queste due donne, queste due donne, l'utero in affitto è l'unico aspetto, ma credo che una volta questa cosa ce la siamo detti anche con Mario, è una delle cose più gravi di questa legge ed è l'unico aspetto che io non condivido, perché è veramente la parte più controversa, nel senso, sì, non so, non è facile, è, e possono succedere cose, ma non è conseguenziale, ma l'utero in affitto c'è anche adesso all'estero, Mario, sì, ma non lo puoi legittimare in Italia, non puoi andare dalla TAG per dire che questo è il tuo figlio, perché i figli nel nostro paese non possono nascere, poiché la natura prevede questo, da due maschi o da due femmine. Vabbè, sapevo che... adesso vabbè, qui scavalliamo, qui non diventa nemmeno più una... questa non è più una discussione però sull'utero in affitto, qui ricominciamo. Ma io lo sapevo, vedi che l'avevo detto che scatenavo Marione. Perché sapevi che non ci facevi. Sapevo che lo scatenavo, ma non così. Marione, dovevo introdurre questo argomento prima. Vabbè, che devo fare? Ecco, perché sapevi che sul resto e sull'immigrazione non avremmo neanche discusso. Esatto, mi tenevi in serbo, capito, la carta finale. Invece di parlare del paraguro buono, dovresti fare. Funziona. Vabbè, oh, se vuoi la faremo magari domani, dopodomani. Ti agito. Te la vedi anche tu privatamente con Veronica Gentili, che tanto esatto, anche noi ce la vediamo poi privatamente. La vedi privatamente con un po' troppe persone, comincia a nervosirmi questa. No, che una di gelosia. Allora, ho capito, però anche te, insomma, te la vedi privatamente con me, dopo 5 minuti con un altro. No, hai ragione, scusa, me la vedo privatamente solo con te e me la prendo con te anche per le ragioni di... Ottimo, va bene così. Allora io vi devo salutare, vi ringrazio Veronica Gentili, Mario Dinolfi, alla prossima, ciao. Ci sentiamo dopo per la rassegna stampa. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan, che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Ci siamo, cari ascoltatori, sono le 7:18 minuti, forza, forza, che è lunedì e bisogna iniziare una nuova settimana con tanta energia. Tra l'altro è la settimana numero 123, decisiva ovviamente, per l'abolizione delle province, 123esima dall'inizio di questa legislatura. E chissà, magari quella decisiva, venerdì le province non ci saranno più. Non lo sappiamo e possiamo solo confidare e guardare positivamente al corso di questa settimana. Intanto noi torneremo sulla questione immigrazione, anche questa settimana andremo avanti fino alle 9:30, come anche la prossima settimana, vi ricordate? Parleremo di immigrazione, avremo ospiti Massimo Fini del Fatto Quotidiano, intellettuale, scrittore. Ci porremo sempre la questione che ci siamo posti anche la scorsa settimana e che oggi sui giornali vedo che comincia a prendere piede la possibilità di un intervento militare in Siria, visto che dalla Siria partono molte persone che poi ci ritroviamo in Europa e che chiedono di essere accolti in quanto scappano dalla guerra. Succederà che ci collegheremo anche con l'Ungheria, avremo ospite l'ambasciatore ungherese in Italia per cercare di capire se l'Ungheria davvero è questo paese brutto, sporco e cattivo che non vuole gli immigrati e che ora vanno per altre mete in Austria soprattutto. Ma parleremo anche dalle 9 alle 9.30 di finanziamento ai partiti, avremo il tesoriere del PD Francesco Bonifazi ospite, perché sapete il PD trionfalmente ha detto noi abbiamo ottenuto molti soldi dal 2 per 1000, così come avremo anche insieme a lui il vice direttore del Fatto Quotidiano Stefano Feltri, che ha scritto un libro dal titolo La politica non serve a niente. Questo è il menù, ma tanti altri temi. State con noi, intanto andiamo a leggere quello che ci propongono i giornali. Eccoci qui, è lunedì 7 settembre, intanto i titoli. L'immigrazione ovviamente prende le prime pagine dei giornali per il Corriere della Sera, profughi, l'impegno del Papa, questo è il titolo di prima pagina, mentre Repubblica, profughi, l'Austria sfida Orban, il Papa, apriamo le parrocchie. La Stampa invece, il Papa, rifugiati in ogni parrocchia. Il Giornale critica Renzi, che avete sentito anche nel giornale radio, e l'abbiamo fatto sentire anche noi prima, ha detto non è una questione di noi o centrodestra sui migranti, quando si specula sulla vita è una questione di umani e bestie. L'attacco disumano, il Giornale mette in prima pagina, Renzi o con me o bestie, questo è il titolo di prima pagina. Il Sole 24 Ore invece apre sul rientro dei capitali, la voluntary accelera, voluntary disclosure, lo vedremo dopo con Mauro Meazza. Il Messaggero sulle tasse, così i tagli alle imprese, ciò che ha annunciato il ministro dell'economia Padoan ieri a Cernobbio. Il titolo di prima pagina invece dell'Unità è l'Italia che non si arrende, questo lo trovate, Renzi a Milano, il paese vivo, solido e solidale, il caporalato va disintegrato. E sui migranti, ecco la frase contestata, non è PD contro destre, ma umani contro bestie. Così Matteo Renzi. Voglio partire però dalla scuola, che riprenderà tra poco, c'è l'intervista al ministro Giannini, intervistata da Il Giorno a pagina 9, è un'intervista che prende come titolo lo spunto dalla promessa che ogni anno si fa, ogni anno poi non viene mantenuta, vedremo se quest'anno invece sì. Ed è questa, riguarda molte famiglie che si vedono chiedere dei soldi dalle scuole. Carta e sapone li pagano i presidi. Questa è la promessa del ministro Giannini, basta scuole sanguisughe. Dice, intervistata da Achille Perego sul Giorno, premesso che non si tratta di una tassa ma di contributi volontari, daremo un indirizzo molto chiaro in questo senso ai dirigenti scolastici, che possono, anzi in alcuni casi devono, coinvolgere i genitori per contribuire a un progetto particolare, ma non più per le esigenze che, come l'acquisto della carta igienica, non ci saranno più. A questo proposito dicono i sindacati che i fondi sono ancora pochi. Ma su questo tema, risponde il ministro, io divento un po' aggressiva. 4 miliardi per la scuola messi nella legge di stabilità dell'anno scorso sono il capitolo più consistente. Questo significa che il governo ha deciso di giocarsi la fiche dell'istruzione. Poi riferisce riguardo agli stipendi degli insegnanti e le risorse per premiare gli insegnanti, se si riferisce ai 500 euro per l'aggiornamento professionale saranno disponibili già quest'anno, dice il ministro Giannini, fanno parte del fondo di oltre 200 milioni. E riguardo ai professori, conosco le retribuzioni anche dei miei colleghi universitari d'Oltralpe, sono ben più alte delle nostre, per la riapertura della contrattazione del pubblico impiego deve chiedere al ministro Madia. Comunque Giannini parla di varie tematiche legate al mondo della scuola, soprattutto questa che dà il titolo, non chiediamo più soldi per carta e sapone. A proposito di scuola, vi segnalo, più che scuola primaria o secondaria, l'università, l'inchiesta che fa il Giornale a pagina 15, 16 e 17, la laurea che fa diventare ricchi. È un'analisi di Giacomo Susca sui dati, sulle scelte da parte dei ragazzi e delle ragazze che vanno all'università, si abbandonano sempre di più, questa è la tendenza degli ultimi anni, le iscrizioni ai corsi di area umanistica, artistica e sociale, e si prediligono i corsi di materie scientifiche, ingegneri, economisti, matematici, scienziati. Beh, benissimo, dico io, benissimo, visto che, come ci aveva raccontato qualche giorno fa Alberto Forchielli nel libro in cui si racconta come trovare lavoro all'estero, sono queste le materie che vengono più richieste. Le materie scientifiche, io capisco, è bello, è scomodo dire va bene, vuoi laurearti in filologia classica, vuoi fare una bella laurea, sapere tutto della storia, della letteratura latina fin negli ultimi particolari, bello, fantastico, molto probabilmente non troverai lavoro, molto probabilmente, poi magari sei un genio e lo troverai, e però questo è il dato di fatto. L'inchiesta del giornale: i giovani non fanno scelte dettate dalla passione, ma si iscrivono a facoltà che garantiscono lavoro e soldi. Meglio insomma i PC che Platone. Lo so che è brutale messa così, ma nel titolo del giornale c'è tutte le ragioni del mondo. Meglio i computer che Platone. L'IVA al mondo. Oh, voglio entrare su tematiche politiche con questa che mi sembra più una boutade, incredibilmente, ma è diventata una proposta di legge del Movimento 5 Stelle di alcuni onorevoli. Questo almeno racconta Carlo Bertini a pagina 9 della Stampa. Udite, udite, cari ascoltatori, c'è una proposta di legge che recita così: è abolita l'utilizzazione del titolo di onorevole riferito a deputati, senatori, consiglieri regionali e provinciali, anche se cessati dalla carica. Insomma, in questa proposta di legge, per chi vuole utilizzare il titolo di onorevole c'è una multa fino a 6.000 euro. Va bene tutto, va bene... Va bene, ma mi sembra un po' un'esagerazione. Il titolo onorevole, recita questa proposta di legge, è sostituito dall'appellativo di cittadino portavoce e chiunque lo utilizzi, cioè il titolo di onorevole, è punito con l'ammenda da euro 600 a euro 6.000. Sono sei deputati, tra cui Ciprini e Lombardi, che hanno proposto questa legge, racconta la Stampa a pagina 9. E va bene, archiviamola. Archiviamola. Ne abbiamo parlato con Mario Adinolfi prima, Mario Adinolfi e Veronica Gentili, che erano scatenati, soprattutto Mario Adinolfi, su queste tematiche, lo sapete. La tematica è quella che vede coinvolte due mamme omosessuali americane. Due mamme, già Mara Dinolfi mi avrebbe ripreso per le orecchie dicendo che di mamma ce n'è solo una. Sì, è vero, va bene, questo è il titolo del Corriere della Sera. Quel reclamo di due mamme gay, ecco, prendetevela con il Corriere della Sera. Quel reclamo di due mamme gay, la bimba è nera. Questo è il titolo che dice poco, ma se approfondite Elvira Serra, pagina 25, lascia perplessi la storia di Jennifer Cramblett e Amanda Zincon. È una coppia che ha fatto causa alla Midwest Sperm Bank, cioè una banca del seme, dopo la nascita di una bellissima bambina nera. Qual è il problema? Che le due donne bianche si erano rivolte alla banca del seme chiedendo il materiale biologico per fare un figlio. E però lo volevano di un uomo caucasico, cioè biondo, occhi azzurri, e si aspettavano dunque una figlia che somigliasse a ciò. Invece, per un errore umano, cioè un numero trascritto male, e quindi hanno sbagliato, invece che il donatore 330, hanno preso il seme del donatore 380, afroamericano. Ed ecco allora che Jennifer è stata fecondata con lo sperma sbagliato e 3 anni fa è nata Peyton, meravigliosa bambina nera alla quale vogliamo un mare di bene, dicono queste due donne, ma ci crea una sorta di problemi che poi vengono elencati, perché vivono in un quartiere abbastanza razzista, una cittadina in cui devono andare nel quartiere nero per tagliare i capelli, la bambina nera non è molto accettata nel quartiere bianco, insomma, morale della favola, hanno fatto causa, ma il giudice ha dato loro torto e ha dato ragione alla banca del seme. Avevano chiesto $50.000 di danni per nascita erronea. così l'hanno definita, nascita erronea. Pagina 25 del Corriere della Sera e via che si scateneranno i dibattitoni. Ma siamo al momento del premio. Mani sul volante se siete alla guida per l'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata. Ed è il caso sollevato da Gian Antonio Stella, pagina 22 del Corriere della Sera. Succede in Sardegna, dove una selva preistorica del Sulcis diventa legna da ardere. E perché, direte voi? Perché il sindaco di Domus Novas, centro di 6.000 anime, insieme all'allora assessore regionale all'ambiente, Gian Antonio Stella dice, pensate un po', all'ambiente, Giorgio Oppi, insieme all'ente foreste, hanno deciso di abbattere una foresta. Ma come? L'assessore all'ambiente e l'ente foreste? Sì, abbattere una foresta demaniale del Monte Marganai, radere al suolo un primo pezzo di 35 ettari di selva. E perché? Per creare posti di lavoro, cioè dare lavoro a persone che possono qui, quindi abbattere questa selva per usare la legna come pellet. Ovviamente c'è subito un dibattito, gli ambientalisti la denunciano, dicono che è l'unica selva di macchia mediterranea da preservare, molto preziosa. Il sindaco dice invece così creiamo posti di lavoro, il vice sindaco dice insomma noi siamo attenti all'ambiente, ma ogni santo giorno in comune c'è la processione, non c'è lavoro, le persone non sanno come andare avanti. Ed eccolo qui: distrugge la selva preistorica del Sulcis che diventa legna da ardere, così creiamo posti di lavoro. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Anquo Alessandro Mila e leserai i giornali come uno che legge i giornali. E che tanti schei? Effettivamente incredibile, mi pagano pure milioni, peraltro milioni e milioni di contratti così che piovono. Cari ascoltatori, come vi ho invitato a mandare i messaggi per le vostre sigle regionali, stanno arrivando allo 0246524492. Eccoci qua, allora, a parlare di immigrazione ancora, lo affronteremo il tema anche dalle 8:15, l'immigrazione con l'appello del Papa, certamente che prende le prime pagine dei giornali, perché Papa Francesco dice quello che per la verità moltissimi italiani pensavano anche, dice ma perché non li accoglie il Vaticano, ma perché non li mettete nelle parrocchie. Eccolo qui, il Papa ha dato una direttiva tassativa: ogni parrocchia d'Europa ospiti una famiglia di profughi, e non siano da meno conventi, monasteri e santuari, a cominciare da Roma, a cominciare proprio dal Vaticano. Francesco all'Angelus dice questo. E dunque l'appello: ogni parrocchia accolga i profughi. Viene intervistato su Repubblica il cardinale Bagnasco, il presidente della conferenza episcopale. Viene intervistato da Paolo Rodari a pagina 4. Cardinale Bagnasco, allora il Papa chiede alle parrocchie di aprire le porte ai rifugiati. Che eco suscita questo appello? Risponde Bagnasco: di gratitudine. Anche nelle situazioni più difficili il Papa ci indica le vie concrete del Vangelo. E dunque dobbiamo servire, accompagnare e difendere. La Chiesa italiana è preparata a fare proprie queste parole? Risponde Bagnasco: sono testimone di un notevole movimento in tutte le diocesi, sono 6 milioni i pasti assicurati ogni anno dalle nostre mense, 15.000 i servizi rivolti a persone povere, servizi aperti a tutti, abbracciano senza fissa dimora, coniugi che si trovano in strada dopo una separazione, vittime dell'AIDS o del disagio psichico. Sul fronte più specifico degli immigrati non sono poche le chiese che si sono pronunciate attive nell'accoglienza. Sì, diciamo, bisogna capire, adesso non è che dà una risposta, faremo così, così, così, in maniera operativa, ci vorrà forse qualche giorno, ma certo la reazione del cardinale Bagnasco è positiva alle parole del Papa, e vedremo ora nei prossimi giorni che cosa succederà concretamente, quante parrocchie apriranno le loro porte appunto ai migranti. Tra l'altro invece in Europa sta succedendo il grande dibattito, anche il grande contrasto tra quello che avviene in Ungheria, dove molti, soprattutto siriani ma anche afghani, sono bloccati, fuggono da zone, da teatri di guerra. E che è successo? C'è stata questa mobilitazione europea, intanto da Angela Merkel, che ha detto sono accolti tutti i siriani. La frase esattamente è stata quella: all'ospitalità tedesca per gli asilanten non c'è limite alcuno, così ha detto Angela Merkel. E anche dall'Austria c'è questa scena plastica immortalata da tutti i video e dalle foto di persone comuni, persone normali che si sono messe in macchina dall'Austria per raggiungere il confine con l'Ungheria. Sono 140 le auto partite da Vienna, di cittadini comuni per l'appunto, per portare intanto aiuti, cibo e medicinali a chi è in marcia in Ungheria. Si è messo in marcia, molte persone sono messe in marcia per dire arriveremo a piedi in Austria, e per anche cercare di portarli al di qui del confine in Austria. Rischiano il carcere, tra l'altro, perché l'accusa è quella di traffico di esseri umani. Noi ne parleremo anche con l'ambasciatore ungherese in Italia, che sarà nostro ospite attorno alle 8:40, per cercare di capire se davvero l'Ungheria è così dura e perché mantiene questo atteggiamento del volere tenere bloccati questi migranti. Comunque rischiano il carcere per aiutarli, questo è il titolo del Corriere della Sera, pagina 3, il corteo di 140 auto che parte da Vienna per portare cibo e medicinali a chi è ancora in marcia in Ungheria. Il dibattito sull'immigrazione in Italia si è molto molto accalorato quando ieri Renzi ha detto questa frase alla festa dell'Unità: strumentalizzano la vita, c'è un elemento di umanità sotto il quale non si può scendere, non c'è il PD contro le destre, ci sono umani contro le bestie, secondo il Presidente del Consiglio. Dunque, quando si parla di strumentalizzare la vita, è una questione di umani da una parte, bestie dall'altra. Ecco allora che il titolo del giornale è proprio questo: Renzi, o con me o bestie. E l'accusa è, nell'articolo di Fabrizio Boschi, a pagina 3, Renzi specula sui migranti, o con me o con le bestie. Certo, questa frase, anche se detta in un comizio, la festa dell'Unità, dal Presidente del Consiglio, nonché segretario del PD, fa discutere parecchio. Così come fa discutere sarà anche un po' l'approccio nostro che avremo dalle 8:15, per la seconda volta cercheremo di concentrarci sul perché non si riesce a mettere un freno alla causa anche di parte di queste migrazioni, come la guerra in Siria. Oggi Giuliano Ferrara ha proprio questo approccio nel titolo dell'editoriale del Foglio del lunedì. Ferrara scrive: se proteggi milioni di vittime devi avere poi il coraggio di combattere il loro nemico. Questa è la posizione di Ferrara all'interno del suo editoriale. Fermare le guerre e i movimenti dell'Islam politico che pretendono di trasformare il mondo in una umma o comunità maomettana. Se accogli ti metti in gioco, se proteggi milioni di vittime di un nemico dell'umanità, devi pur sempre, amandolo, combattere il tuo e il loro nemico. L'apertura delle frontiere europee sarebbe una tragica farsa senza una strategia per far mettere radici a pace e libertà dove queste sono conculcate. Con lo stesso vigore usato nel dir la verità del diritto d'asilo, i governi europei e quello americano dovrebbero affermare il diritto di intervento per strappare gli artigli alla bestia del disordine fanatico, della persecuzione etnica e religiosa, della distruzione delle memorie archeologiche che sono patrimonio dell'umanità, come direbbe l'UNESCO. Insomma, conclude Ferrara, l'universalismo delle libertà e la protezione della persona non possono fermarsi all'accoglienza umanitaria. Accogliere, ma anche stroncare là dove c'è una delle cause delle migrazioni moderne, come la guerra in Siria, ma non solo. Se volete, c'è anche Bono Vox, il mio idolo da sempre, quello che avrei voluto essere da grande. Bono, il leader degli U2, che fa questa intervista, questo dialogo più che un'intervista, con Mario Calabresi, direttore della Stampa, che lo accompagna nel viaggio in macchina da Torino a Milano. Ieri Bono era a Milano all'Expo, anche a fianco di Renzi. Per l'Europa, settimana di svolta, la Merkel nuovo simbolo morale. Questo è quello che dice Bono, che poi dà le sue ricette sul Papa, su sul salvare la fame nel mondo, su dicendo, pur dicendo io sono solo una rockstar, ma insomma dice alcune delle sue idee sul piccolo Aylan, sulla foto, su Renzi, sul Papa, sull'arcivescovo Desmond Tutu, due pagine di colloquio, pagina 4 e 5 della stampa. Volevo essere Bono, è vero, un po' meno il paraguru Bono che si è trasformato, in cui si è trasformato negli ultimi anni, ma comunque, comunque è pur sempre Bono. Mauro Meazza, buongiorno. Anche buongiorno. Mauro Meazza è Bono, dovreste vederlo. Devo cantare qualcosa? Devo intonare qualche cosa? Si no? sa, Mauro Meazza è un grandissimo cantante. Meglio di no. Meglio di no a questa ora. Voglio parlarti di Voruntari di Scrajura. Eccola là. Caro mio, so che hai già andato. Che cavolo ordini? Mannaggia la puttana, spiegatevi bene. Non è semplice, ecco, caro Angelino, cari ascoltatori, però vi possiamo dire. Presentiamo questo sondaggio che abbiamo fatto tra alcuni professionisti per capire se questa Voruntari di Scrajura, questo rientro dei capitali, funzionerà o no. Il termine adesso è fissato al 30 settembre, entro il 30 settembre bisogna presentare le domande, che vedremo se arriverà o no una proroga. Insomma, potrebbe essere che le 15.000 domande che attualmente risultano, dato ufficiale, le circa 15.000 che risultano presentate, siano intorno a un quinto di quelle che in realtà poi verranno presentate entro la fine del mese. Vedremo, la tua è pronta? La mia è prontissima. Dal Costa Rica, dove sì, sei stato. Ovvio. Parliamo anche di anatocismo, lo dico sempre per il nostro amico Angelino, ma anche per tutti quelli che vogliono capirci di più nel meccanismo degli interessi sugli interessi. Ne parliamo nell'Esperto Risponde, nelle pagine dell'Esperto Risponde. Oh, e poi stamattina ti vorrei parlare anche dell'effetto Matrioska. Che è l'effetto Matrioska? È quando si fa la legge e ci vuole il decreto attuativo. E fin qui va bene. Però poi dal decreto attuativo ci vogliono gli altri decreti. E, ecco, non sfugge a questo effetto Matrioska anche il Jobs Act, cioè la riforma del lavoro. Sai che venerdì appunto abbiamo completato il suo varo dei decreti attuativi, però adesso mancano gli decreti attuativi dei decreti attuativi. Ma ti raccontiamo tutto oggi sul Sole 24 Ore. Così come ti parliamo dei voucher, quelli per il lavoro accessorio cosiddetto, a proposito di lavoro, che sono stati innalzati a 7.000 euro per un corretto utilizzo, ti rimando alle pagine di norme e tributi e dove se no. Naturalmente stai attento a non sprecare, perché nella nostra infodata si può mostrarlo agli ascoltatori. Eccola qua, sui rifiuti. Sui rifiuti, esatto. Segnaliamo che ci sono delle regioni abbastanza sprecone, complessivamente e mediamente. Quant'è la media dei rifiuti italiano? 487 kg l'anno. 487 kg di monnezza, eh? Quindi è forse ancora un po' tantino. Oh, e poi voi, sempre a proposito di lavoro, scusami, te lo dovevo dire prima, ma mi sono scordato, mi sono ingarbugliato, c'è lavoro in Nuova Zelanda. Ci sono anche delle offerte di lavoro in Italia, ne parliamo sulle pagine di lavoro e carriere che trovi oggi sul Sole 24 Ore. Oh, e aprendo così la settimana decisiva, che non per quella cosa che continui a dire tu, ma che ci porterà invece allo scontro fratricida, caro. No, non posso, caro Alessandro, se uso il cognome funziona. Forza Inter. Che sportività, non capisco se è una gufata al quadrato questa. Forza Inter. Va bene, aprendo questa settimana con gioia, io ti saluto e ti dico traffico! Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta... Qua Baris dice che come legge le notizie Alessandro Milan è una corsa mondiale. Va bene. Grandi ascoltatori. Una corsa mondiale a Bari. Allora, grazie. Continuiamo a vedere che cosa ci propongono i giornali. Beh, il ministro Padoan a Cernobbio ha detto che arriveranno gli sconti fiscali alle imprese. Questo ha detto alla platea di imprenditori, ma non solo, che erano a Cernobbio al Forum Ambrosetti, però è interessante soprattutto sottolineare questa notizia di Padoan, c'è un po' su tutti i giornali, invece il retroscena che ha Repubblica con Roberto Mania, pagina 12, ed è questo, riguarda le pensioni. Ora Palazzo Chigi abbandona le pensioni, non c'è copertura per la flessibilità in uscita. Le pensioni, scrive Repubblica, escono dal menù della prossima legge di stabilità. Nessuna flessibilità in uscita per correggere il ripido innalzamento dell'età pensionabile, con tutti gli effetti collaterali dagli esodati in giù introdotti dalla riforma Fornero. A Palazzo Chigi sono nettissimi. Non ci sono le coperture. Dovremmo aprire un negoziato con la Commissione di Bruxelles, ma questo lo faremo per strappare più flessibilità sui parametri legati agli investimenti e non per la spesa pensionistica. Questa è una frase che viene attribuita a fonti di Palazzo Chigi, e dunque, scrive Repubblica, se ne parlerà quasi certamente l'anno prossimo. E d'altra parte sia il premier Renzi sia il ministro Padoan hanno parlato tanto di tasse nell'ultimo weekend a Cernobbio, ma mai di pensioni e di flessibilità in uscita. Ed è significativo che abbiano scelto di non accennare nemmeno al tema delle pensioni davanti a una platea di imprenditori e investitori che considerano proprio la riforma del governo Monti un passaggio chiave nel processo di risanamento delle finanze pubbliche e di riacquistata credibilità dell'Italia sui mercati. Questo Repubblica, e staremo a vedere se nella prossima legge di stabilità davvero è così. A Cernobbio c'era anche Salvini, si è presentato in giacca e cravatta, anche se ha detto solo per qualche ora, e ha detto una frase interessante, come raccontano tutti i giornali, e cioè, chiuso con gli imprenditori, ha detto noi al governo metterò uomini e donne, metterò persone migliori di me. Così ha detto Salvini, cioè mi sto circondando di buoni consiglieri e ne avremo bisogno di altri. Ha forse voluto rispondere un po' all'accusa che si fa a Salvini, cioè di essere un uomo ruspante dal punto di vista della politica, ma forse non buono, non con quelle doti di mediazione che sono necessarie per governare. E in qualche modo forse sì, ha risposto così dicendo al governo chiamerò persone migliori di me, e cioè i buoni consiglieri di cui mi sto circondando. Poi, uscito ai giornalisti, ha detto l'anno prossimo Renzi, se verrà qui, verrà qui non più da premier. Ha detto insomma che Renzi cadrà politicamente. Staremo a vedere. Vi risparmio tutto il dibattito interno al PD sulle mediazioni, la riforma del Senato, la trovo di una noia non mortale, di più che appena parli la riforma del Senato stramazzano 15 persone, però c'è, se volete, sui giornali anche il dibattito interno al PD su quella che è la mediazione che Renzi sta studiando e sta proponendo alla minoranza del Partito Democratico per tenere in piedi tutta la riforma del Senato. Lasciamola lì da parte, tanto nei prossimi giorni verranno, ahimè, invasi i giornali di questi articoli, di queste analisi. Mi interessa invece sottolineare in chiusura alcune cose importanti. La prima è un'intervista al nuovo general manager di Uber Italia, si chiama Carlo Tursi, viene intervistato da Repubblica da Fabio Tonacci, fa alcuni annunci. Intanto nasce Uber Giubileo, cioè un ride sharing dedicato al giubileo. Non solo, dice Repubblica, faremo lavorare i noleggiatori con conducente che non hanno la licenza nel comune dove operano. Stiamo portando anche, e stiamo pensando di portare in Italia, Uber Eats, cioè la consegna a domicilio in macchina di piatti caldi dal ristorante. Insomma, tutto questo rilancia dopo che Uber Pop è stata considerata illegittima dal Tribunale di Milano. Dice Carlo Tursi, il prodotto è ancora in fase di sviluppo, Uber Giubileo sarà utile per Roma, dove nelle ore di punta solo il 28% della mobilità è coperta dai mezzi pubblici. Il nome provvisorio è questo, Uber Giubileo sarà attivo per tutto il 2016. Non posso entrare nei dettagli, ma dice che il ride sharing è un fenomeno recente dirompente che ha indubbi vantaggi per i consumatori, e riguardo ai tassisti che hanno spesso protestato, dice il nuovo general manager di Uber Italia. Ci auguriamo non ci siano violenze. In passato abbiamo avuto provocazioni solo da una piccola parte degli operatori e certe esasperazioni dei sindacati non hanno aiutato. Questo è quello che dice il nuovo general manager di Uber Italia, Carlo Tursi, viene intervistato da Repubblica. Vi segnalo per la cronaca l'intervista a uno degli psichiatri che ha visitato Luigi Chiatti. Luigi Chiatti, conosciuto anche come il mostro di Foligno, ha ucciso due bambini. E la notizia è che nei giorni scorsi è uscito dal carcere per essere trasferito per una struttura. Non c'è più il carcere giudiziario, sono stati chiusi, ma viene trasferito in una struttura nel Cagliaritano con misure di sicurezza, perché dice questa psichiatra intervistata per Il Giorno da Erika Pontini, Chiatti delira e può uccidere ancora. Ma siamo, eccoci qua, al momento conclusivo. Prima di rientrare in onda alle 8.15, vi ricordo, parleremo di Siria, parleremo di migrazione, parleremo di finanziamento pubblico ai partiti, parleremo di tante cose, ma eccolo qui, la carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali, anche in diretta su Periscope, in questo momento. Perché un sorriso ci rende migliori. Un'intera pagina sull'importanza di sorridere, scritto da Roseline Salemi sulla Stampa. Sorridete, sorridete ascoltatori, che è lunedì, sorridete! Ma chi se ne frega! Dubbi, domande, preoccupazioni, la vita di tutti i giorni è proprio piena di questioni da affrontare. Però un piccolo aiuto ve lo diamo noi, qui a Cuore Denari, la fabbrica dei consigli utili. Firmati dai nostri esperti e facili da mettere in pratica. Benessere, salute, prevenzione, risparmio, lavoro, casa e famiglia. Allora appuntamento come sempre, da lunedì al venerdì, ma attenzione, nuovo orario. Vi aspettiamo dalle 10.30 alle 12, sempre con Cuore Denari. Con Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone. Naturalmente su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, capolavoro della filiera ecosostenibile. Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan. Ciao Milano, che te porti lo migliafogo. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei. Quando parli sembri laureato in tuttologia, fai tutto tu. Allora, cari ascoltatori, sono le 8.20 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Alla fine, guarda un po', sembra proprio Angela Merkel il volto buono dell'Europa, eh? Che ne dite? Che ne pensate? Angela Merkel, la dura, austera, irreprensibile cancelliera tedesca, che dice non c'è limite alcuno nell'accoglienza di coloro che fuggono dalla guerra, eh? Eppure in Austria stanno mettendo in moto questa mobilitazione molto spontanea. Sono partite 140 macchine, si conta, di persone comuni che si sono messe alla guida per andare verso l'Ungheria, là dove sono bloccati molti dei migranti, che hanno deciso di mettersi in marcia a dire: ok, non ci volete far andare, noi andiamo a piedi fino al confine austriaco. Persone comuni che vanno lì al confine per cercare di portare un po' di conforto, generi alimentari, assistenza, e cercare anche di farli passare dall'Austria all'Ungheria. Rischieranno qualcosa, addirittura l'accusa di traffico di esseri umani. Vabbè, fin qui quello che succede in Europa. In Italia si dibatte su questi temi dell'immigrazione con i soliti toni, con i soliti schemi. Sentite per esempio Salvini su Angela Merkel. Aspetta, la Merkel accoglie i ridicola, profughi. Ridicola, ridicola, ridicola. Accoglie i siriani. Ciumbia, dove c'è effettivamente guerra, sceglie anche che tipo di immigrati accogliere. Questo è Salvini, mentre Renzi che parlava alla festa dell'unità, parlava dunque al popolo del Partito Democratico, si è lasciato andare una frase, certo nei comizi si dicono un po' cose sopra le righe, mettendo a confronto la destra e le bestie. Di fronte a quelle immagini non c'è il PD contro la destra, ci sono gli umani contro le bestie e basta! Gli umani contro le bestie, non il PD contro la destra. Vabbè, queste sono parole, sono schermaglie politiche. Già però la scorsa settimana noi abbiamo avuto un approccio un po' più pragmatico. E vedo che tra l'altro questo approccio è molto sviluppato oggi nei giornali, anche nel weekend. Per la verità ci sono stati degli sviluppi anche con dichiarazioni importanti. Ed è questo l'approccio. Ha senso una politica dell'accoglienza senza andare contemporaneamente ad affrontare anche i perché di queste migrazioni? Per esempio, parliamo di quella che è più sotto gli occhi di tutti, la guerra in Siria. 300.000 morti, molte persone che fuggono da quella situazione. Qua rischiamo l'effetto del rubinetto aperto, no? C'è la vasca piena d'acqua, ma se la svuotiamo ma non chiudiamo il rubinetto, ci ritroveremo sempre l'acqua in casa. E allora ci si chiede, non è il caso di intervenire in Siria? Oggi Giuliano Ferrara, certo, magari si può dire, ma come, Giuliano Ferrara è uno di quelli che ha appoggiato di più la guerra in Iraq, che è una delle cause di questa situazione. Comunque, Giuliano Ferrara sul Foglio ha proprio questa impostazione: se proteggi milioni di vittime devi avere poi il coraggio di combattere il loro nemico. E il loro nemico è quello del disordine fanatico, della persecuzione etnica e religiosa, quello della distruzione delle memorie archeologiche, patrimonio dell'umanità, come direbbe l'UNESCO. Questo è il punto di partenza. Voglio salutare Massimo Fini, scrittore e giornalista. Buongiorno, ciao Massimo, come stai? Ciao, mi vengo. È piacere di sentirti. Piacere mio. Allora, parliamo con te, parliamo con il professor Paolo Mattia, che abbiamo richiamato, docente alla Sapienza, archeologo, scrittore. Buongiorno, professor Mattia. Buongiorno. E grazie, perché avere un archeologo può sembrare una cosa, ma come parlate di guerra. Ma ragazzi, ma lì in Siria è notizia degli ultimi giorni, e notizie continue di questi mesi, di distruzioni del patrimonio dell'umanità, come viene definito, di distruzioni di beni archeologici millenari. Professor Mattie, perché è importante anche questo tipo di approccio, non solo quello, se vogliamo, che poi affronteremo, militare o più pragmatico, più di intervento? Ma vorrei dire prima di tutto che non sono delle rovine normali, suggestive e interessanti, è qualcosa di straordinario. Palmira è un tesoro dell'umanità. Se per intendersi così sulla comunicazione contemporanea, sempre molto effervescente, si è detto che ci sono 7 nuove meraviglie del mondo, Palmira non è tra quelle 7, ma sta sicuramente tra le successive 7, dopo Angkor Wat, il Taj Mahal, il Colosseo e Machu Picchu. Dico, non c'è assolutamente dubbio, Palmira è un luogo assolutamente magico e straordinario, e qui si è arrivati al punto che si è distrutto il Tempio di Bel, polverizzandolo, facendolo scoppiare, esplodere con 30 tonnellate di esplosivo. Quindi la perdita è gravissima per il patrimonio culturale, ma come ha detto il direttore generale dell'UNESCO, questa è una guerra contro la civiltà, questa è una guerra in cui le vittime e le pietre, come lei si è espressa, sono ormai sullo stesso piano. Eh sì, ed è per questo, è anche per questo che ci sono gli inviti a intervenire militarmente. Lei li condivide? Tra poco vedremo su Repubblica, per esempio, in un articolo di oggi di Adriano Sofri, il vescovo di Erbil dice: mandate le truppe per fermare lo Stato Islamico. Ci sono sviluppi, la Russia pare voler intervenire, Cameron ha detto non escludiamo di intervenire, potrebbe essere anche un motivo per intervenire quello di fermare gli scempi che stanno facendo queste persone? Io devo dire che sono sempre stato convinto che dall'inizio della crisi siriana nel marzo del 2011 gli errori che sono stati compiuti sono stati enormi, tutto è stato sottovalutato, e adesso, come è tardi per le rovine di Palmira, così è certamente tardi per la situazione generale, ma non c'è dubbio che bisogna intervenire, perché il fenomeno dell'ISIS è qualcosa di assolutamente sconvolgente in ogni senso, per gli uomini e per le cose. Certo, ci vuole una coalizione internazionale seria, vera, e che abbia intenzione di colpire, perché finora la coalizione occidentale non ha colpito le truppe dell'ISIS. E io vorrei capire da Massimo Fini, Massimo, che lo dica un tuo, possiamo dirlo così, certamente una persona che non ha le posizioni dal punto di vista intellettuale come le tue, come Giuliano Ferrara, che dica andiamo lì e interveniamo, perché altrimenti lo Stato Islamico, che facciamo? Cioè, non togliamo una delle cause che poi produce questo fiume di persone che fuggono dalla Siria. Senti, Milan, io non ho più intenzione di ascoltare tipi come Ferrara che dopo aver favorito queste situazioni adesso ci dicono cosa si deve fare. Vabbè, ma non c'è Ferrara, quindi dimmi la tua. Dimmi la tua. Mondo, eccetera. Io so questo, che tutti gli interventi occidentali, ancora prima dell'11 settembre, cioè dall'aggressione del tutto ingiustificata alla Serbia a quella libica, hanno prodotto situazioni peggiori di quelle che volevano o dicevano di voler curare. Prima cosa. Seconda cosa, noi non siamo in grado, diciamo dal punto di vista proprio del coraggio fisico e morale, di mandare delle truppe. Sì. E questo è il punto. Ti faccio un esempio che sembra minimale. Tu ricorderai, gli ascoltatori ricorderanno che l'altro giorno c'è stata una rapina in un supermarket. Sì. Il bandito minacciava la cassiera, un ucraino ha lasciato la sua bimba con la carrozza, con la carrozzina, è intervenuto per fermare il bandito, poi è stato ucciso dall'altro. Dice, un italiano non l'avrebbe fatto. C'è tutta una serie di episodi in cui a intervenire sono serbi, albanesi, senegalesi, ma italiani no. No. Quindi non abbiamo il nervo per fare una guerra. Non abbiamo il nervo. C'era un bel pezzo su Repubblica che diceva guerra senza epica e fine dell'eroe Rambo. Questo per gli occidentali, non parlo per gli italiani, sì. È verissimo, nel senso che noi ci siamo abituati a combattere non con gli uomini, ma con le macchine. E adesso ci troviamo di fronte a gente che invece... Patrizia, abbiamo sempre fatto una guerra tecnologica, adesso ci dovremmo trovare a fare un faccia a faccia, no? A scontrarci sul territorio e non siamo più abituati a questo tipo di... Assolutamente no. Ho capito, ma allora che facciamo? Li lasciamo lì? Cioè poi dopo gli effetti, anche brutalmente, proprio per l'aspetto pragmatico da affrontare, gli effetti poi sono anche un fiume di persone che dalla Siria vogliono fuggire, e non è che fuggono e vanno nei paesi musulmani, non è che vanno in Libano, non è che vanno in altri paesi, vengono qui in Europa. Questo è vero, la Merkel, che è l'unico statista europeo presente su piazza, ha fatto una cosa giusta e sacrosanta. C'è però il fatto che le migrazioni non sono solo dalle guerre, anzi sono una parte minima. Le migrazioni vengono dall'Africa nera, in paesi dove la guerra non c'è. Sì, è vero. C'è la fame, che non c'era fino a 40 anni fa, perché l'Africa era alimentarmente autosufficiente fino al 1970. Sì. Ecco, è diventata invece, è stata ridotta la fame perché, introdotto il nostro modello, sono state distrutte le economie di sussistenza, autoproduzione e autoconsumo. Lì ci sono 700 milioni di persone. Basta che una parte consistente di queste venga verso di noi e saremo sommersi. Succede. E non c'è niente da fare. È una parte sta arrivando. Io l'ho detto, ho scritto anni fa. Un pugno di paesi ricchi, peraltro con sperequazioni notevolissime all'interno, circondate da un mare di miseria, alla fine, proprio per una questione fisica, verrà sommerso il mare di miseria. Ah, ecco, questa è la previsione. È la previsione che ci dà Massimo Fini. Però le sviluppi ce ne saranno. Anche oggi il Corriere racconta con Davide Frattini lo scenario della guerra con i russi, che avrebbero già identificato il porto di Latakia in Siria dove dispiegare dei propri aiuti militari. Insomma, con un qualcosa che si muove. Lo vedremo tra poco. Prima vorrei tornare un attimo al professor Mattia e fare questa domanda. Ieri leggevo su Repubblica che esiste un progetto così definito Monuments Man. Sapete quel film in cui, film storico importante, in cui durante la Seconda Guerra Mondiale c'era un gruppo di archeologi che voleva recuperare tutto il bottino, mettiamolo così, delle ricchezze artistiche trafugate da Hitler. Esiste ed è possibile una specie di progetto alla Monuments Man per ciò che è stato distrutto, professore? Ma ci sono nel mondo una serie di iniziative, forse pure troppe, di salvaguardia nei paesi occidentali, a partire dalla Turchia meridionale, alle frontiere che non esistono più tra Siria e Turchia, per salvaguardare il patrimonio culturale, nel senso di far fronte all'ignobile mercato antiquario che viene dagli scavi clandestini e ora dalla distruzione dell'ISIS. Ma si tratta di, così, di aspetti solidaristici, certe volte anche equivoci, devo dire. Io non conosco in dettaglio questo che è stato annunciato, ma non è certo in questo modo che si può salvare veramente il patrimonio culturale. È un problema estremamente complesso e si porrà sicuramente qualche cosa che a noi italiani ancora non piace, cioè la ricostruzione di questi monumenti. Come per dire, noi abbiamo fatto per Monte Cassino e come i russi hanno fatto per la grande reggia di vicino a San Pietroburgo, o i tedeschi per Dresda. Questi simboli della civiltà umana, del mondo civile, non della Germania, della Russia o dell'Italia, non c'è dubbio che devono essere ricostruiti contro il nostro rigorismo italiano. Allora, andiamo un attimo in pubblicità, poi rientreremo tra tre minuti con il professor Paolo Mattia e con Massimo Fini. La domanda che vi pongo è chiara. Massimo Fini dice: sono scettico, qualsiasi intervento occidentale, non solo gli ultimi in Iraq ma anche quelli precedenti, hanno prodotto solo dei disastri. Magari siamo partiti con delle buone intenzioni ma abbiamo ottenuto risultati che sono peggiori di quelli che pensavamo di poter ottenere, quindi no a un nuovo intervento militare. Però vorrò capire che ne pensa Massimo Fini allora di questo Stato islamico. Che facciamo? Li lasciamo proliferare così? Li lasciamo stare? Insomma, tante domande, anche le vostre, se volete, all'800 24 0024. Tra poco siamo qui. Siamo qui alle 8:38 minuti. Allora siamo con Massimo Fini. Ringrazio il professor Paolo Mattia, docente alla Sapienza, che ci ha spiegato perché è importante anche andare a preservare e difendere il patrimonio culturale. Massimo, neanche di fronte a questo tu ti smuovi, neanche di fronte alla preservazione dei beni millenari, un infine intellettuale come te. Mannaggia. Senti, i beni millenari sono importanti, ma la vita degli uomini è più importante dei beni millenari. Sì, certo, questo sì, ma muoiono anche, sono morte 300.000 persone in Siria, secondo le stime. Sì, ho capito, sono morte 300.000 persone, siamo intervenuti noi contro Assad, e cosa abbiamo fatto? Abbiamo rafforzato fra quelle milizie che combattevano Assad, c'era l'ISIS, e l'ISIS è passato in 448 tutte le altre milizie. E effettivamente quello è un po' bello, quello che era il nostro nemico adesso paradossalmente deve diventare il meno peggio di fronte a un nemico peggiore, cioè l'ISIS. Avrei notato che l'Iran, inserito non si sa mai bene perché nell'asse del mare, perché per 20 anni sanzioni economiche è diventato l'unico vero baluardo all'ISIS, perché i Bazaran iraniani sono in grado, spero, di contrastare ISIS. ISIS però non è forte solo per la ferocia e l'indubbia abilità dei suoi combattenti, è forte perché è un'epidemia ideologica. Sì. Loro hanno preso Sirte con 200 uomini contro 2000, non so, sì, pochissimi, perché la città era già preparata a essere ISIS. Quando tu fai un errore così clamoroso come cacciare per un colpo di Stato i fratelli musulmani, che erano moderati, certo, i fratelli musulmani erano sicuramente un islamismo moderato, era l'unico che aveva combattuto Mubarak pagando prezzi altissimi. Comunque, un anno e mezzo di governo. Accusa qual è? Non hanno introdotto leggi islamiche, nulla. Vabbè, Ebbene, fai un colpo di Stato e ci metti il generale al-Sisi. Risultato: ci sono 20.000 egiziani che sono andati a combattere con ISIS, ma all'interno dell'Egitto, naturalmente, si creano tutta una serie di cellule ISIS che saranno pericolosissime. Vabbè, insomma, la teoria di Massimo Fini è che l'Occidente quando interviene fa e combina solo disastri. Sì, però, non è solo un combinare disastri, ha fatto anche orrori inenarrabili. Vabbè, ma insomma, però fammi così, facciamo sentire qualche ascoltatore, alcuni saranno con te, altri ti criticheranno, qualcuno via SMS dice gli italiani hanno nervo, altro quello che dice Massimo Fini, oppure vai nei centri sociali a dire queste cose, caro Massimo Fini, che se la sono presa per il fatto che tu hai detto che gli italiani non hanno nervo. Comunque sentirei Caterina che ci chiama da Como all'800240024. Eccoci Caterina. Buongiorno. Allora, io non sempre sono d'accordo con Fini, ma questa volta sì. Soprattutto sulla futura miseria dell'Italia. Ah, ottimismo questa mattina. Tutte queste persone che portano miseria. Io li vedo adesso, arrivano a dormire qui vicino nei piccoli paesini lì per terra con i materassini. Ma per quanti anni li dovremo mantenere queste persone? Guardi Caterina, non lo so, il Pentagono, se adesso lo so, Fini forse subito salta sulla sedia, il Pentagono dice che questa crisi umanitaria durerà per 20 anni, non lo so, però è d'accordo con te Massimo sulla questione della miseria che ci portano queste persone brutalmente. No, io per la verità non ho detto questo. Ho detto che questo è inevitabile nel momento in cui tu li hai disarticolati nei loro paesi, che vengono da noi, chiaro. Dell'Africa nera, sì. Parlo dell'Africa subsahariana, quindi non parlo di Siria e Iraq, questo era inevitabile. In quanto al nervo degli italiani, io veramente non lo vedo, perché voglio dire, ragazze vengono stuprate nel centro delle città e nessuno di noi interviene. Il benessere in questo senso c'è, cioè, svilizzato e fatto male, questa è la verità. Oh, eccolo lì. Giulio da Cremona, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Allora, io volevo fare delle domande, cioè mi sono fatto tante domande e mai nessuno mi ha dato la risposta. Mi sono dato la risposta da solo leggendo un libro. Sì. È possibile che nel 2015 non si arrivi a smantellare certi gruppi, certe persone che combinano dei disastri? O è perché dietro c'è qualcosa di più grosso? Si riferisce allo Stato Islamico? Cioè, non vuole sporcarsi la faccia e manda avanti e che libro, queste persone? Che libro ha letto che gli ha dato tutte queste risposte su cosa c'è dietro? Questo libro è intitolato Il Gran Conflitto, il conflitto tra il bene e il male, scritto da una scrittrice che, guarda, sta accadendo tutto quello che ha scritto ancora nel 1860. Cioè, un libro addirittura dice questa signora, questo libro dovrebbero leggerlo tutti perché siamo in una situazione drastica. Sento dire noi dobbiamo intervenire se no ci troviamo, ma noi siamo già impreparati. Se siamo impreparati. Agire questi gruppi che rovinano delle nazioni. Ma questi gruppi chi? Cioè a chi si riferisce? Lo Stato Islamico? È possibile. Vabbè, ma questa è la questione. Caro Giulio, però Massimo Fini ha fatto, sapete che Massimo Fini è anche uno provocatore, uno che dice le cose sempre senza fare tanti giri di parole. Ho letto, Massimo, di recente una tua intervista sul Fatto Quotidiano, parlavi per carità di berlusconiani, berlusconismo, non berlusconismo, quindi di un altro tema, ma hai concluso dicendo: sappiamo la tua posizione contro questa democrazia rappresentativa che secondo te ha fallito in questi anni, dunque meglio l'ISIS. Ma come meglio l'ISIS? No, il fatto è questo, quello che io intendo dire è che tutti questi bla bla democratici e il benessere, come ho detto, ci hanno svirilizzato. Mentre da quell'altra parte, invece, evidentemente, hanno un altro tipo di forza. Ma il tipo di forza è il fanatismo religioso. È il fanatismo religioso che ammazza le persone perché uno... Hai ragione, ma scusa un secondo. C'è un totalitarismo occidentale che ha voluto colonizzare il mondo intero, cominciando tra l'altro... se parliamo solo degli ultimi 15 anni, voglio dire 16, cominciando dall'Afghanistan, che non era un pericolo per nessuno, che vuole portare il bene non esiste il bene assoluto che saremmo noi e il male assoluto che sarebbero sempre i nostri nemici. Questo è il manicheismo che, ripeto, poi ci fa compiere un'infinità di errori, ma non, cioè, solo non possiamo, errori, non possiamo, errori. Non possiamo dire che noi siamo meglio di quelli dell'ISIS. No. No. Siamo forse un po' peggio, perché quando un drone guidato da Nellis nel Nevada uccide 300 persone, a noi ci fanno orrore gli strangolatori, certamente, ma non è che la cosa sia migliore. Anzi, è peggiore, dice te. È peggiore perché non ti implichi nemmeno fisicamente e personalmente. Stai a Nellis, poi vai a mangiare con la tua mogliettina americana. Allora andiamo al traffico, che poi cercheremo di capire che sta succedendo anche in Ungheria, con un collegamento tra poco. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta qua alle 8 e 48 minuti, siamo con Massimo Fini. Massimo, sai cosa, che ne pensi di quello che è successo in Ungheria con tutte queste persone che si sono messe in moto dicendo noi andiamo in Austria, essendo all'Austria sono partiti a dire vi portiamo aiuti noi, gente comune che è andata. Certamente, dico che la Merkel, che ha preso il provvedimento almeno iniziale possibile, che è quello del diritto d'asilo ai profughi che vengono dalle guerre, ai siriani in questo caso sostanzialmente, ha fatto benissimo. Dobbiamo anche renderci che quello che è successo in Ungheria, proprio per le cose simboliche che richiama, è totalmente inaccettabile. Dobbiamo però anche renderci conto di una cosa che dà molto fastidio ai Salvini e a tutte quelle bande di individui che fanno politica in Italia, che un'Europa veramente unita ed efficiente può essere solo a guida tedesca. Che parole sante. Sai che io ho lanciato una volta ho detto siamo d'accordo. Sai che poi tempo fa ho lanciato questa provocazione: diamo le chiavi alla Merkel, ci fossero le chiavi dell'Italia con una grande porta alla Merkel. Ovviamente sono stato ricoperto da insulti, razzista, anti-italiano. Non sono anti-italiano e razzista, dico solo che gli italiani hanno un grosso problema, sono italiani, ecco tutto qui. Tu vedi che Merkel sta facendo sforzi notevoli per abbandonare quella politica americana che vuole sanzionare la Russia nel momento in cui noi abbiamo bisogno della Russia, ma non solo. È chiaro che la Russia diventa oggi la nostra alleata per motivi geografici, energetici, oserei dire anche culturali, no? Rispetto agli americani. Quindi cerca nel limite possibile, perché poi ci sono 60 basi americane in Germania. Una delle prime cose che dobbiamo fare è liberarci gli americani. Poi Adesso su questo torniamo a essere in disaccordo, ma vedi. Tanto però, Massimo, ti voglio presentare il signor Michele che abbiamo raggiunto a Budapest. È un connazionale italiano. Saluto e buongiorno, signor Michele. Buongiorno. Lei è un commerciante. Da quanto tempo è residente a Budapest? Da 15 anni ormai. Da 15 anni. E so, mi hanno detto in redazione, che lei insieme ad altri connazionali ha cercato di fare qualcosa per questa situazione di queste persone, soprattutto siriane ma anche afghane, che sono rimaste bloccate e sono ora in marcia, diciamo, in Ungheria. Che cosa avete fatto? Sì, certo. Non solo noi, ci sono anche ragazzi svedesi, norvegesi, diciamo tutti gli stranieri che vivono a Budapest, tedeschi soprattutto. Stiamo cercando di dare una mano, visto che non c'è nessuna organizzazione alle spalle governativa. Ci siamo organizzati con i volontari ungheresi e stiamo cercando di raccogliere coperte, visto che le persone dormono all'aperto, cibo, soprattutto per i bambini, saponette, shampoo, un po' di tutto. Come mai, dal punto di vista delle autorità ungheresi, sappiamo che c'è una questione politica, se volete anche complicata, di scontro, ma perché anche la minima assistenza di base, la protezione civile non interviene, non esiste? Ma bisogna dire che l'Ungheria è uno stato piccolo e non è abituato a queste cose da tanti anni, quindi non era pronto ad accogliere. Qui stiamo parlando di migliaia e migliaia di persone con bambini piccoli, anziani, e non c'era un'organizzazione alle spalle che poteva, era in grado di fare tutto questo. Sì, e quindi ha sopperito a questo anche l'aiuto delle persone normali. Certo, sì, poi è cambiato tutto negli ultimi due giorni dopo la marcia dei siriani a piedi. Sì, perché prima c'era molta diffidenza anche da parte degli ungheresi, tantissimi ungheresi guardavano cosa succedeva solo alla TV, non si sono resi conto. Quando si sono trovati 3.000, penso che siano stati 3.000 persone, camminare a piedi per il centro e poi entrare in autostrada, hanno bloccato tutto, praticamente non si passava più, io ero con loro. E lì si sono tutti resi conto di quello che stava succedendo, e non le chiacchiere su Facebook, sui social network o alla TV, su certi telegiornali dove è cambiata un po' la sensibilità anche dell'Europa. Sì, sono tutti uomini, sono pericolosi. Lì praticamente si sono viste gli anziani con le stampelle, centinaia di bambini che trascinavano le borse, lì tutti gli ungheresi si sono resi conto di quello che stava davvero per succedere. Beh, insomma, intanto vedremo, perché questa marcia continua e c'è il rischio da parte di alcuni in house di essere accusati addirittura di traffico di esseri umani, se vorranno aiutare in qualche modo a far attraversare il confine tra Austria e Ungheria queste persone. Io intanto la ringrazio, signor Michele, vorrei sentire Luigi da Lucca che ci chiama. Ho capito questa storia degli italiani, il nervo degli italiani ha fatto un po' scoperchiare il nervo degli italiani. Sì, caro Milan, Luigi, ha ragione. Dal nervo allora, al nervo. Volevo dire al prestigioso giornalista Massimo Fini, che non condivido per niente in nessuna delle cose che dice, che molti sono gli italiani che hanno dato la vita per salvare delle persone. Non c'è bisogno che vengano i senegalesi o gli ucraini, come dice lui. Quello è un fatto puramente episodico. È stato un fatto ricordare che l'Italia è piena di eroi. Capito, Massimo? Capito. Non siamo gli altri. Capito. Un'altra osservazione volevo fare alla signora che mi ha preceduto, che diceva come faremo a mantenerli. Bisognerebbe ricordare agli inglesi, ai belgi, agli olandesi, ai francesi, che hanno saccheggiato il mondo. Non hanno fatto gli investimenti al momento opportuno e ora questa gente vi presenta il conto. Su questo con Massimo Fini siete un po' d'accordo, no? La lettura è abbastanza simile. La prima parte sugli italiani che hai capito che ne abbiamo anche noi di eroi. Ma voglio dire, noi siamo stati gli unici a usare i gas contro gli etiopi, voglio dire. Nella seconda guerra mondiale neanche Hitler aveva fatto. Adesso tiri fuori tutti gli episodi per cui gli italiani sono degli italiani straordinari. La battaglia di Iron Man, noi siamo stati all'altezza della situazione, ma sono episodi. Gli italiani di oggi, soprattutto di oggi, parlerei diversamente per quelli usciti dalla guerra, che quindi avevano un'esperienza drammatica alle spalle, ecco, io li vedo estremamente molli al tutti confronto a cambiare la loro Opel Corsa con una BMW. Con questo non si va da nessuna parte. La Opel Corsa, ancora la Opel Corsa, si è rimasto un po' indietro, ma va bene. Tutti al confronto dell'ISIS, quella cosa però che hai detto, l'ISIS sono meglio di noi. Vabbè, Massimo, ti voglio bene lo stesso. Grazie, Massimo Fini, intellettuale, scrittore. Ciao, alla prossima, ovviamente. Grazie per essere stato con noi. Allora, vi ricordo che noi andremo avanti fino alle 9.30. Ci sono anche gli ascoltatori, perdonami adesso da Pistoia, se riusciamo ti recupero dopo le 9, tanto andiamo avanti fino alle 9.30, parleremo di finanziamento ai partiti, perché sapete che il PD trionfalmente ha detto ci hanno dato tanti soldi gli italiani col 2 per 1000. Avremo Francesco Bonifazzi, che è il tesoriere del PD, insieme a lui il vice direttore del Fatto Quotidiano Stefano Feltri, dopo il giornale radio delle 9. Buongiorno da Maurizio Melis. Questa sera a Smart City parleremo di uno speciale film che, spalmato sul retro delle celle fotovoltaiche, potrebbe aumentarne di un terzo il rendimento. Infatti, le comuni celle solari che si trovano in commercio riescono a convertire in energia elettrica non più del 20% dello spettro solare. Ad abbatterne l'efficienza contribuiscono varie cause, tra cui il fatto che ogni cella assorbe solo la luce di certe lunghezze d'onda, in altri termini solo certi colori, mentre è trasparente al resto della radiazione. Tuttavia, ricercatori dell'Università di Kyushu in Giappone e dell'Università Milano Bicocca hanno trovato il modo di aggirare il problema mettendo a punto il prototipo di un film a base di nanoparticelle fluorescenti in grado di convertire la radiazione a cui la cella fotovoltaica è trasparente in luce che invece la cella è in grado di assorbire. Appuntamento con Smart City alle ore 20.50 qui su Radio 24. Buona giornata.

più riesci a essere virtuoso nel contrarre le spese e più hai un beneficio anche di carattere elettorale. Questo sì, perché c'è la percezione, insomma, da parte di molti italiani che la politica abbia, diciamo così, utilizzato un po' troppi soldi in passato, per cui se uno fa il parsimonioso viene percepito meglio, lei ci sta dicendo? Assolutamente sì, noi abbiamo fatto come tutto un sistema di ridimensionamento dei costi per arrivare al pareggio di bilancio, anzi un piccolo utile abbiamo fatto quest'anno dopo anni di perdite piuttosto ingenti, il 2013 10,8 milioni per esempio. Certo, la politica costa molto meno del passato. Io le voglio presentare una persona che invece sostiene più che costi molto meno, che conti molto meno. Si tratta del vice direttore del Fatto Quotidiano, è Stefano Feltri. Buongiorno, ciao Stefano e benvenuto. Ciao Alessandro, grazie dell'invito. Allora, Stefano Feltri ha scritto un libro il cui titolo dice tutto, edito da Rizzoli, e il titolo è questo: la politica non serve a niente. La tesi è molto forte, ovviamente, immagino che Bonifazi la contesterà, ma perché intanto questo titolo così, così provocatorio, Stefano? Ma il titolo, come dici tu appunto, è provocatorio, ma c'è un ragionamento serio dietro, che è il seguente: noi da anni chiediamo alla politica essenzialmente una cosa, cioè creare posti di lavoro, farci uscire da questa crisi, ma diciamo, i risultati sono così deludenti che il tasso di astensione continua ad aumentare e molte persone, diciamo, rifiutano di dedicare alla politica perfino il tempo necessario a mettere una croce sulla scheda elettorale. Allora io nel libro cerco di spiegare che il loro comportamento non è così irrazionale, nel senso che le grandi variabili che determinano la crescita in questo momento ormai non sono più sotto il controllo della politica. Gli esempi ce li abbiamo un po' dappertutto. In campo economico penso per esempio a Uber, che cambia il trasporto pubblico molto più di qualunque legge in Parlamento, ma se guardiamo anche la cronaca di questi giorni sulle migrazioni stiamo vedendo che appunto alla fine a un certo punto la politica deve prendere atto di cose che succedono intorno ai suoi confini, la politica dei governi, e non riesce più a controllare come una volta le frontiere, la spesa pubblica, eccetera. Cioè in questo dici non serve a niente, nel senso che gli eventi sono talmente più alti e volano più in alto della politica che sovrastano quello che qualsiasi Parlamento può decidere. Sì, un po' questo, un po' il fatto che i cambiamenti che sono in corso, soprattutto diciamo dal lato della tecnologia, ma non solo, stanno spostando una parte del potere che prima era in capo alla politica, che è un po' come quei monopolisti che approfittano della loro renta di posizione, aveva gioco facile, lo sta spostando a favore delle imprese e anche a favore dei cittadini. Quello che diceva Bonifazi è vero, cioè i social network, la politica fatta sui social network costa molto meno, ma il risultato può essere anche che ti trovi un partito al 25% che non ha apparato e che ha messo un po' fuori mercato alcune forze tradizionali. E questo è l'emblema l'emblema del successo elettorale, l'ultima tornata del Movimento 5 Stelle, che come sappiamo non accetta neanche un euro dal punto di vista del finanziamento pubblico. Però vorrei da Stefano Feltri allora una lettura sul perché, che lettura ti dai del successo, almeno in questa tornata, del 2 per 1000 per il PD. Poi vorrei sentire anche Bonifazi. Perché secondo te molte persone rispetto all'anno scorso hanno deciso di investire il proprio 2 per 1000 nel Partito Democratico? Ma intanto va ricordato che il 2 per 1000, come tutti gli interventi di questo tipo, in realtà è solo, come dire, è solo fintamente privato come finanziamento, nel senso che poi in realtà si tratta di destinare una parte di tasse che altrimenti sarebbero andate allo Stato, vengono dirottate verso i partiti. Il PD chiaramente è l'unico partito che ha mantenuto un po' di quella struttura del Novecento, di presenza territoriale, ha i legami con il sindacato, la CGIL che gestisce i CAF, ha una rete che diciamo ancora in grado di motivare l'elettore a dare un piccolo contributo. Quindi come dire, il PD è di fatto l'unico partito che c'è in Italia in questo momento, quindi non mi stupisce che ci sia almeno in quel caso ancora un po' di interesse, di attaccamento, ecco. No, ma è chiaro, sì. Non so se ha stupito anche lei, Bonifazi, vi ha stupito questo scatto di finanziamento da parte degli italiani o no? Ma noi più della cifra ha stupito il numero, nel senso che il numero complessivo si aggira intorno a 900.000 persone, un milione, che sul fronte dell'elettorato attivo, come dire, è una buona percentuale, nel senso che è quel milione di persone che comunque si occupano, seppur magari anche un quarto d'ora il giorno, di politica. Ma non sono 549.000, perché io ho letto questa cifra? No, ho detto in riferimento a tutto il 2 per 1000. Ah, okay. I 500, noi abbiamo raccolto circa il 60% della cifra complessiva. Direi che il dato è impressionante anche perché, come sapete, supera addirittura il numero dei nostri iscritti, che si aggira intorno ai 400.000, e quindi è obiettivamente è stata una sorpresa. È interessante, al di là dei soldi, no, interessante, la tessera non la faccio, ma un po' di soldi ve li do, questo è il concetto. Assolutamente sì, e perché è vero che il 2 per 1000 incide sulla fiscalità generale, però è altrettanto vero che nella dichiarazione dei redditi è un atto di volontà. Questo, cioè, certo. Quindi il commercialista potrebbe ad esempio non dirti che c'è quella possibilità e tu quindi coscientemente decidi invece di optare. Però, Bonifazi, certo, le chiedo questo. Ieri proprio il Fatto Quotidiano metteva un dossier di due pagine sulla questione del finanziamento di coloro che danno in maniera legittima delle donazioni ai partiti. Però non dovrebbe essere tutto estremamente trasparente? Guardi che lo stesso Fatto Quotidiano aveva criticato di non aver detto chi è bene la lista di coloro che hanno partecipato alle cene per Renzi. Non dovrebbe essere tutto nero su bianco, sapere nome, cognome, a fianco quello che è stato donato, ogni cosa, ma non solo chi è d'accordo a farlo sapere, proprio per tutti. Se vuole il mio parere personale, sono assolutamente d'accordo, anche perché si toglierebbero un sacco di dubbi, dietrologie, anche perché se vi ricordate tutta la polemica intorno a Buzzi, per esempio, nasceva dal fatto che i fatti contestati a Buzzi sono avvenuti però 2 mesi dopo. Io all'epoca non sapevo minimamente dell'esistenza dei problemi che sarebbero accaduti, perché lui c'era alla cena, è vera questa cosa? L'ho dichiarato sull'Unità, il giornale che abbiamo riaperto, quindi non posso più smentirlo a questo punto. Non l'ho visto, ma c'era. Quindi assolutamente trasparenza massima. Lei prima mi chiedeva per quale motivo penso che ci sia stata un'adesione così importante. Uno dei motivi è quello che le dicevo prima, e cioè che noi abbiamo cercato, nei limiti del possibile, nel rispetto della privacy, di dare una gestione la più trasparente possibile. Sì. E questo ha contato, soprattutto in una militanza che ancora nel nostro partito esiste, un'attenzione che è molto forte. Lei non si può immaginare se ad esempio, come nel caso del pareggio di bilancio, qual è la partecipazione di tanti iscritti o simpatizzanti che hanno voglia poi di palesarti la soddisfazione. Ecco. Sì, Stefano Feltri, salutiamo con soddisfazione il fatto che il parere personale di Bonifazi sia quello di dire dovrebbe essere tutto trasparente, cioè voi vi battete anche per questo. Se io do un euro o 100.000 euro, credo che 100.000 sia il limite massimo, comunque do un finanziamento a un partito, bisognerebbe sapere, come in America, nome, cognome e quanto ho dato, senza se e senza ma, Stefano. Ma sì, assolutamente, la giustificazione della privacy è veramente un po' patetica, perché basta dire che si accettano i soldi soltanto da chi acconsente a rendere pubblica la donazione. Ed è finito il ragionamento, cioè se uno dice io ve li do ma non voglio che si sappia, un partito che crede davvero alle cose che dice Bonifazi dice mi spiace ma io non posso accettarli perché i miei elettori altrimenti mi impalano se io prendo soldi a qualcuno e non dico chi, perché poi si finisce davvero come in America, dove appunto c'è una grande trasparenza su alcune cose e poi ci sono i super PAC, che sono quelli, diciamo, i fondi che raccolgono fondi che arrivano da altre cose, in cui ufficialmente non si sa chi c'è dietro e ufficialmente neanche finanziano la politica, ma come dire supportano iniziative, sostengono un candidato, insomma c'è una grazia, si entra in una zona grigia dove poi nessuno riesce più ad attribuire responsabilità. Che dice Bonifazi, non è più così? Che è un po' un discorso che sulla carta funziona, Nella pratica poi un partito, una volta che abbiamo abolito il finanziamento pubblico, di qualche cosa deve pur vivere, quindi è chiaro che la legislazione deve aiutarci. Faccio un esempio, e lo dico, uso un termine che potrebbe essere in Italia letto male, ma una legge sulle lobby o qualche cosa che regola il rapporto tra il partito e il soggetto privato che intenda finanziare è necessario, perché altrimenti è vero che di principio il concetto di trasparenza deve essere, come dire, il faro, l'elemento, però dall'altra parte ci vogliono gli strumenti, perché sì, altrimenti è una delle altre cose, però mi permetta, necessaria, che si dice necessaria da anni e anni e anni e poi non si fa. Al Senato però se ne sta parlando, sì, in maniera più complessa. Io però vorrei capire, Stefano Feltri, se la politica non conta più niente o non serve a niente, come scrivi nel tuo libro, questa tesi molto forte, perché la necessità di finanziarla da parte di qualcuno che ancora da soldi, anche appunto senza volere che si sappia. Beh, allora non serve più a niente per risolvere i grandi problemi collettivi, ma può servire molto a risolvere i piccoli problemi individuali di certe aziende, di certi gruppi o di certe lobby. Insomma, noi sul Fatto cerchiamo di raccontarlo con una certa frequenza. Insomma, il governo Renzi è stato così applaudito a Cernobbio anche perché ha fatto molto per alcuni gruppi, pensiamo sia alcune cose per il settore bancario, ma abbiamo raccontato gli scambi tra investimenti produttivi e modifica delle accise sul tabacco. Cioè, ricordiamoci che Renzi ha girato varie imprese e spesso queste imprese avevano poi una qualche partita in discussione al Senato. Abbiamo raccontato i favori alla lobby. Tu dici addirittura un do-destra. È un bene, insomma, che il presidente del Consiglio di Principio vada in giro per le imprese e nel tessuto produttivo. Sì. Ma io non ho niente in contrario a questo. L'importante, torno a dire quello che dicevo prima, l'importante è che ci sia una trasparenza. Trasparenza, che Bonifazi, cioè, questa trasparenza manca. Se una certa azienda finanzia le fondazioni di Renzi e poi in cambio ottiene degli incentivi fiscali o un decreto fatto in un certo modo, questo non va bene. Io lo so, e poi dopo lo valuto se mi va bene. No. Bonifazi, che aveva da dire a proposito? No, mi sembrava mancasse il DES, il DOUT DES, nel senso che il punto fondamentale è che da quando abbiamo abolito e non urlato di abolire il finanziamento pubblico, la forma di finanziamento privato più consistente è quella del 2 per 1000, ovvero tutto il contrario del rapporto di DOUT DES con i grandi potentati bancari italiani. Cioè, a me servirebbe davvero la norma sulla trasparenza, e da questo punto di vista, essendo onorevole, mi impegnerò per farla, per superare questo cosa della privacy che inibisce assolutamente tutti, e soprattutto di fronte alla scelta se optare per mantenere riservata la propria identità o meno, normalmente gli imprenditori decidono per rimanere coperti, diciamo, cioè, così. Anche però ci sarebbe una soluzione, ha detto Feltri, cioè che il partito decida e allora noi non prendiamo i tuoi soldi se tu non ci dai l'autorizzazione alla privacy, potrebbe essere anche questo. Sì, è un atteggiamento che, ripeto, funziona molto bene in radio, è molto più complesso farlo per chi ha la responsabilità, ecco, di... Cioè, dice il tesoriere, il tesoriere Feltri, cioè, magari 20-30 mila euro che gli possono entrare, Feltri, che deve fare, insomma? Il problema, allora, se il mondo fosse come dice Bonifazi, io gli potrei quasi dare ragione. Il problema è che Bonifazi è tesoriere del PD, ma non è per esempio tesoriere della fondazione Open di Renzi, che ha preso nel 2014 questa un milione fondazione di euro. È un'altra vicenda, allora, abbastanza. Il punto è, noi abbiamo raccontato per esempio sul Fatto il caso della British American Tobacco, che versa, che diciamo ottiene di fatto una modifica dell'accisa del tabacco come le serviva, e versa 100.000 euro la fondazione Open come, diciamo, ringraziamento. È chiaro che questo è un'ingenuità totale dell'azienda, perché non si fanno queste cose in maniera così esplicita, ma se, diciamo, i cittadini credono nella politica, danno il loro 2 per 1000, e poi le lobby, diciamo, pagano direttamente la fonte, neanche il partito, ma pagano direttamente il salvadanaio del premier i cui uomini poi vengono addirittura messi nei CDA delle grandi aziende, penso a Alberto Bianchi nell'Enel, che in maniera da presidiare direttamente il... Dici, c'è troppo il rischio di connivenza, insomma, dare i soldi in cambio di ottenere qualcosa. Fatemi sentire Stefano da Brescia che ci ha chiamato. Stefano, sì, buongiorno. Pronto, buongiorno a tutti. Dica. Avrei una domanda molto semplice da fare al tesoriere, sì, del PD. Visto che hanno preso tutti questi soldi col 2 per 1000, sì, intendono pagare i debiti dell'ex unità, del giornale ex unità? Questo è un tema... Te lo prego di non trovarmi la scusa che non era il PD, no, vabbè, degli altri partiti è arrivata. La domanda è chiara: abbiamo già affrontato il tema dei debiti con dell'unità che temo verranno pagati dai cittadini tutti col tesoriere Bonifazi, però ecco, tesoriere, c'è Stefano che dice utilizzate questi soldi, può succedere? Come spiegai, qui ci vorrebbe davvero una trasmissione, sì. Assolutamente no, ma non per un motivo di sottrazione di responsabilità da parte del PD. L'Unità è era un giornale, Unità la precedente, la vecchia gestione, ma non è gestione, la precedente società, che è una cosa diversa, eh? È un affare che spetta a Sposetti, ovvero al tesoriere dei DS, sì, perché è lì il legame giuridico e politico fortissimo. La nuova unità è un'unità che nasce da un percorso sempre molto complesso, c'è un concordato di mezzo, mm, e stiamo rilevando l'azienda, il ramo d'azienda, attraverso un'operazione che va avanti ormai da più di un anno, trovando una società che aveva accumulato 34 milioni di euro di debiti e 800 mila euro. Ma questo ce l'aveva spiegato bene l'altra volta, la cosa incredibile, però ci aveva promesso che avrebbe fatto di tutto per andare da Sposetti, che è un vostro collega parlamentare del vostro stesso partito, per cercare di dirgli: Sposetti, come la mettiamo? C'è riuscito nel frattempo, o fa orecchie da mercante Sposetti sempre? No, di Sposetti non ne parlo ora. Basta. Stefano Feltri, mi sa che non ne veniamo a capo di questa vicenda. È abbastanza incredibile questa. Beh, non è mica, cioè, il punto non è mica Sposetti, il punto è quando c'era il governo D'Alema, mise di fatto, questo su indicazione di Sposetti, una specie di garanzia pubblica sui debiti della vecchia unità, per cui adesso il contenzioso non è mica tra, cioè non è solo tra le banche e Sposetti, la vecchia gestione di DS, ma di fatto è tra le banche e Palazzo Chigi. Chiaro, perché il punto è che alla fine pagherà Palazzo Chigi. Insomma, ma lo stesso tesoriere Bonifazi ce l'aveva detto, che il timore che se Sposetti dall'altra parte non fa, è una vicenda complicatissima. Comunque la risposta è no, non utilizzeranno questi soldi per l'unità. Io devo chiudere qui ringraziando Stefano Feltri, ricordo il libro La politica non serve a niente, edito da Rizzoli. No, 20 secondi, ecco, ma infatti questa domanda ce l'avevo da mercoledì. Onorevole Bonifazi, non vogliamo invadere la sua privacy, ma è uscito su Chi e lei ce l'ha detto. Ma lei è stato fidanzato con Maria Elena Boschi? Assolutamente no, ho lavorato con Maria Elena Boschi. E perché su Chi hanno scritto l'ex fidanzato? Anch'io. È diventato un tormentone, ma non è vero. Non è vero. Smentisce. Smentisco, ed è davvero la persona, forse la mia migliore amica, ma non mai fidanzata. Va bene, abbiamo fatto chiarezza, serviamo anche a questo. Vi ringrazio, a domani mattina 6:30 puntuali.